di nulla. Poco poco, giusto? No, no, guardate, c'è un cordino. Ecco. No, solo un po', se no a quest'ora prendete sonno. Ci organizzeremo per un distributore di caffè in aula. Cosa dite? Magari si può fare. Grazie. Prego. Grazie. Oh. Per cui la puntualità, il foglio di firma, lo ripeto per chi fosse entrato ora, il foglio di firma lo datate solo oggi, dalla prossima lezione le date le metto io. Voi solo una firma. Stop. E man mano che faremo lezione li troverete datati, per cui non ci saranno cose strane sulle date assolutamente. Il corso, di che cosa tratta il corso? Così anche chi non ha avuto modo di venire alla presentazione sa un po' di che morte morirà. Quest'anno io avrei piacere di vedere insieme a voi l'arte fiamminga, che di solito non è frequentata nei corsi ufficiali, solo quest'anno la professoressa Corniati ha chiuso il corso di Medievale 2 con un accenno proprio, un accenno, con degli interventi pertinenti per quanto concerne proprio l'arte fiamminga, ma solitamente anche a scuola dubito abbiate più di tanto visto e trattato di arte fiamminga. E vorrei farlo, a differenza di quanto l'anno scorso abbiamo fatto, perché è stato uno dei tanti argomenti trattati lo scorso anno, sul corso appunto dedicato all'immagine riflessa, quest'anno lo vorrei fare confrontando la scuola fiamminga con i rinascimenti italiani. Volutamente uso il plurale perché ogni città ebbe un suo rinascimento e soprattutto l'Italia ebbe perlomeno tre grandi scuole legate al momento storico che mettiamo sotto il cappello rinascimento. Il sud Italia, dove la città principe fu Napoli, Napoli-Palermo, ma diciamo era lo stesso governo e di conseguenza il gusto imposto era il medesimo, Firenze naturalmente, con tutta una situazione particolare legata soprattutto a quella che era stata la capacità dei fiorentini di conquistare la Grecia, cosa che di solito i testi di storia dell'arte tralasciano. Per cui questo grande amore improvviso per il classico non fu casuale, andò a coincidere proprio con la presenza di una serie di famiglie fiorentine durante le crociate a governare proprio la Grecia, Atene in modo particolare. Divenne per un certo periodo proprietà della famiglia Medici e la famiglia Medici vi mise la famiglia Acciaioli, avendo in cambio tutta una serie di reperti archeologici favolosi che andarono ad arricchire proprio il patrimonio artistico di famiglia Medici. Molti di quei pezzi, scusate non ho tolto la suoneria, molti di quei pezzi oggi rientrano nei tesori dei musei vaticani per un motivo semplicissimo, perché quando uno dei Medici divenne Papa Leone X, portò con sé tutta una serie di reperti archeologici per abbellire la propria dimora personale e quella della cognata. La cognata abitava a Villa Madama, per cui una villa progettata da Raffaello Sanzio. Di conseguenza parte di quel patrimonio oggi appartiene ai musei vaticani. Penso per esempio alla straordinaria tazza Farnese, che non è una tazza, vero, ma è un enorme, usiamo un termine italiano, un'enorme ciotola con uno straordinario cameo centrale di dimensioni assolutamente straordinarie che appartenne proprio all'epoca classica, arrivò direttamente da Atene. E il confronto, la terza città, per cui dicevamo Napoli-Palermo, Firenze, la terza città fu Milano, con influenze diverse perché i contatti con il nord Europa rispetto a Firenze erano maggiori, per cui anche nel gusto vi erano delle lievi differenze che determinarono tutta una serie di elementi di cui parleremo durante il corso. Il confronto che vorrei proprio fare insieme a voi con l'arte fiamminga non sarà quello di prendere l'artista fiammingo e di confrontarlo con un suo contemporaneo, perché ci interessa poco questo, secondo me. Quello che a me piacerebbe fare insieme a voi invece è vedere che cosa gli artisti italiani rubarono, copiarono, portarono via all'arte fiamminga e viceversa. Questo forse ci interessa di più, perché è inutile che io vi faccia due contemporanei che avrebbero potuto anche non conoscersi e non vedere mai l'uno l'opera dell'altro. Si tratta solo di contemporanei e ci interessa poco, se non a livello, vabbè, nozionistico, storico, ma io questo lo do già per superato al biennio, spero. Si vedrà. Quello che mi interessa invece è proprio cogliere insieme a voi le interferenze. Allora sì, diventa interessante vedere che cosa troviamo in comune tra artisti geograficamente così lontani, che so, appunto, Bosch e Piero della Francesca, che sembrano due mondi diametralmente opposti, ma che in realtà ebbero tutta una serie di punti di contatto di cui parleremo, andando anche proprio a confrontare le opere. Per cui in questo senso arte fiamminga e Rinascimento italiano. Il nostro perno, il cuore del corso, sarà Hieronymus Bosch, altro artista poco frequentato solitamente nelle lezioni di storia dell'arte in Italia. Perché ho scelto proprio uno di quelli che vengono considerati gli artisti maledetti, no? Perché c'è quasi una mitologia su questo personaggio e soprattutto tutta una serie di misteri che piacciono tanto agli appassionati d'arte e non agli esperti d'arte all'interno delle sue opere. Perché Hieronymus Bosch, da una parte, sarà l'erede della grande scuola fiamminga, erede nel senso che arriva quasi un secolo dopo rispetto alla grande scoperta della pittura d'olio tipicamente fiamminga, sarà in un certo senso anche uno degli ultimi eredi di una tradizione legata alla simbologia medievale molto forte, interessantissima, appassionantissima, perlomeno per me. E per altri versi sarà anche un trampolino verso ciò che potrà essere considerato già il barocco, per tutta una serie di situazioni, per le ambientazioni scure, per lo studio dei soggetti, per l'impostazione talvolta prospettica. Per cui veramente è uno straordinario artista che è grande erede della tradizione medievale in generale, fiamminga in particolare, e al tempo stesso è anche, diciamo, non tanto l'iniziatore, ma l'anticipatore di tutta una serie di elementi che troveremo fino alla fine del 1600. E anche, come dicevo ieri, lo ripeto soprattutto in questo corso, vi prego, le date vanno prese con cognizione di causa. La pittura ad olio non nasce all'improvviso un mattino. La pittura ad olio sarà una sperimentazione che avverrà gradualmente, per tentativi, per disastri e probabilmente anche per errore in alcune situazioni. E vi prego, nel momento in cui la pittura ad olio prenderà piede, la tempera non sparirà a mezzanotte di quel giorno. Cioè non è che dalla mezzanotte della fine del 1300 nessuna gallina fece più uova e quindi la tempera scomparve. Vi prego, vi vedo già perplessi. La tempera all'epoca si faceva con le uova, vero? Non si acquistava in tubetto, si faceva. Ecco, bello sarebbe, poi vedremo se la professoressa Valle ha voglia, magari di dedicare un paio d'ore extra la lezione, in modo da non togliere nulla alla parte teorica, per farvi sperimentare la tecnica antica, perché sarebbe proprio bello capire quanta puzza, per esempio, faccia la tempera antica. E per antica intendo fino a Van Gogh, vero? Per certi elementi. E tra l'altro non dimenticatevi Van Gogh è un fiammingo e quindi porterà dentro di sé, soprattutto per quella che è la magia delle ricette dei colori, proprio degli antichi ricettari, buona parte di quello che le botteghe fiamminghe dell'epoca moderna iniziarono o modificarono. Per cui dobbiamo ricordarci che anche l'epoca fiamminga non è un'epoca che nasce e muore in quel frangente, non dura due secoli e solo nelle Fiandre, o meglio, dura come luogo geografico fino ad oggi, perché le Fiandre ancora esistono, ringraziando Dio, ma il gusto fiammingo, la scuola fiamminga arriva fino ai giorni nostri, perché anche l'arte contemporanea di quell'area geografica risente fortemente di quelle che sono state le sue radici, fortunatamente, altrimenti saremmo tutti uguali e chiunque potrebbe fare qualsiasi cosa nello stesso modo. E io cercherò di non farvene dimenticare mai. Per cui ricordatevi che, appunto, quando nasce una nuova tecnica, tutto quello che c'è stato prima continuerà ad esistere, non è che sparisca. Interessante quindi sarà anche vedere il confronto, come si ottenga la brillantezza nella tempera nel momento in cui avrà per antagonista l'olio. E quindi tutta una serie di problematiche legate alle verniciature, per esempio, che grande difficoltà mettono oggi alla scuola di restauro, per esempio, perché sono tutte vernici comunque naturali e quindi complesse, anche perché non sono ferme. Cosa vuol dire? Vuol dire che io non ho un acrilico che così è, così resta, perché è un composto chimico inorganico, morto, sintetico. Io ho a che fare con colori e vernici vegetali o animali che cambiano reagendo proprio a livello chimico con l'aria o con la combinazione tra pigmento colorato, colore e vernice, tra supporto spesso in legno, biacca utilizzata e quindi la stesura del gesso, per usare un termine improprio, e poi il colore sopra. Ci sono tutti elementi che non possiamo dimenticare o tralasciare, perché non siamo all'università, siamo in un'accademia di belle arti e voi siete dei tecnici, quindi questi sono tutta una serie di nozioni e di elementi che dovreste riuscire ad acquisire come bagaglio prima di uscire da queste mura, si spera sempre naturalmente. Quindi diciamo questo sarà il corso quest'anno, la bibliografia, che di solito è una delle cose che vi angoscia di più. Quasi tutti, naturalmente, vi sono angosciati dalla bibliografia. Ve la fornirò per intero la settimana prossima, perché avevo inserito un testo abbastanza costoso che mi sono resa conto non esistere più in biblioteca. C'era e non c'è più, esattamente come è successo con la bibliografia di medievale. E di conseguenza ho voluto cambiare testo. Sicuramente terremo come libro di testo, come la Bibbia del corso, che di solito aiuta sempre, una sorta di così libro da lanciare nei momenti di disperazione e da coccolare quando ci si perde un po', sarà un testo di Einaudi dedicato proprio al rapporto tra la pittura fiamminga e la pittura italiana, che vi racconterà quello che io a lezione non dirò. Non racconto mai quello che studiate nei libri, perché sapete leggere e quindi il libro ve lo leggete da soli, non serve che io vi spieghi il libro, c'è già il libro che si spiega da sé. Io faccio quello che nel libro non c'è, se no perché farvi lezione, non ci sarebbe motivo. Qualora poi studiando trovaste delle difficoltà, me ne parlate, sia nell'orario di ricevimento che a lezione, perché può essere anche problema comune. Questo testo non è più edito, ma non sono così crudele da mettervi il testo principale che non è più in commercio. Si trova qualche copia in commercio, ma è al di sopra degli 80 euro e sinceramente non mi è parso il caso. Se poi volete farvelo regalare a Pasqua o per il compleanno, liberissimi. Ho già chiesto alla biblioteca di fotocopiare la copia che abbiamo in giacenza, in modo che, come anche per medievale, possiate fotocopiare la fotocopia del libro. Ne esiste un solo esemplare in biblioteca, vediamo di tutelarlo e di proteggerlo. Fotocopierete le fotocopie. Penso che già dalla prossima settimana siano a disposizione in biblioteca di questo testo. Inoltre metterò sicuramente altre 3 o 4 cose. Non spaventatevi, non sono tomi da 1000 pagine. Sono testi molto agili che vi aiuteranno a seguire meglio la lezione. Non perché sono un'egocentrica, anche perché sono un'egocentrica, ma importantissimi saranno gli appunti del corso, perché vi aiuteranno anche a capire che cosa va studiato davvero nel libro e che cosa può essere solo letto. Il testo principale porta la maggior parte delle immagini in bianco e nero, per cui se anche le studierete in fotocopia la vita non vi cambierà. Do per scontato, lo do proprio per scontato però, che tutte le opere che analizzeremo a lezione andiate a cercarvele a colori. È pittura fiamminga e rinascimento italiano, cioè è il colore per eccellenza, per cui vi prego, la tradizione dello studio sull'immagine in bianco e nero lasciamola agli storici dell'arte che non vanno a vedersi gli originali. Voi no. Voi, per piacere, le opere le studiate a colori, se sono a colori. Cosa potremo vedere dal vivo? Purtroppo, un viaggio nelle Fiandre sarebbe bellissimo, ma io voglio, e sottolineo voglio, non vorrei, voglio, che quello che andiamo a vedere sia fruibile a tutti, è già accaduto. Di conseguenza è inutile fare viaggi costosissimi dove anziché essere tutti siamo un quinto, non c'è motivo. Andremo a vedere quello che economicamente tutti potete permettervi, d'accordo? Viene inaugurata la prossima settimana una splendida mostra al Museo Poldi, al Museo Strozzi a Firenze, dedicato a Pontormo e Rosso Fiorentino. Saranno due artisti che tratteremo nel corso. Cerco di capire quanto costa e andremo a Firenze. E magari ci andiamo a maggio, d'accordo? Lo decidiamo nel giro di 15 giorni, in modo che tutti possiate organizzarvi nell'acquisto dei biglietti più economici possibili e ci andiamo con una loro visita guidata, perché sono fiorentini straordinari e chi lavora a Palazzo Strozzi merita tutto il nostro elogio, sono grandissimi professionisti. Ci faremo accompagnare da loro in una conversazione, perché agli ospiti della vostra età non fanno visite guidate, si fanno proprio delle conversazioni. Inutile dirvi che poi saremo lì e ne approfitteremo per andarci a vedere altri originali, senza farci una giornata da tour de force in cui torniamo tutti morti da Firenze. Però un paio di Rosso Fiorentino dal vivo, che sono gratuiti a Firenze, basta entrare in chiesa, ce li andiamo a vedere, andremo proprio a vederceli. E anche magari Pontormo, dato che ci siamo. Siete studenti d'accademia, agli Uffizi entrate gratuitamente, a Palazzo Pitti entrate gratuitamente, vedremo di organizzarci, insomma. E poi siete grandi, cioè non è una gita scolastica dove tutti dobbiamo stare in fila, si va insieme, punto. Ognuno poi può scegliere il treno che preferisce, rientrare all'ora che preferisce. Stiamo a vedere. Intanto io vedo l'inaugurazione e cerco di capire soprattutto quanto ci costa una conversazione. Di solito hanno cifre assolutamente fruibili, accessibili a tutti, e quindi vediamo di riuscire ad organizzarci in tal senso. Questo sarà un appuntamento sicuro. Qualora fosse troppo costoso, per cortesia non vergognatevi di venirmelo a dire. Magari non me lo dite in aula davanti a tutti, me lo dite privatamente e vediamo di riuscire a farlo lo stesso, insomma, questo sforzo di andare a Firenze. Se fosse troppo caro per più di due tra voi, non lo facciamo. Vi invito casomai ad andare autonomamente, chi ha voglia, chi può, da solo. Ma vi ripeto, quando facciamo qualcosa vorrei che fosse proprio possibile a tutti poter frequentare, esserci e vedere le cose. Se economicamente è troppo impegnativo, non si fa proprio con nessuno. Questo per quanto riguarda l'uscita canonica ufficiale, ne facciamo di solito almeno una. Perché, ripeto, l'arte va vista dal vivo. Vedere un quadro e vedere la fotografia di un quadro non è mai la stessa cosa, mai. Anzi, lo dico ma non l'ho detto, chi lo registra lo cancelli, dovremmo anche poterle toccare, non solo guardare. E dovremmo anche poterle staccare dal muro e vederle dietro. Capiremo un'infinità di cose, ma tante proprio. A prescindere che sia tavola, tela, marmo e quant'altro. Avendo lavorato per tanti anni in museo, credetemi, questa cosa di toccarle mi è proprio entrata dentro e quindi, quando posso, tocco. Voi non fatelo e non raccontatelo. Questo per quanto riguarda, diciamo, le linee generali. L'esame, che di solito è il patema d'animo per quasi tutti. Com'è un esame da me? Qualche collega dice che è troppo facile, qualche collega dice che sono insopportabile, qualche altro collega dice che non capisce come mai io abbia così tanti studenti considerato quanto fetente sono. Capite? Opinioni diverse, situazioni differenti. Prima di tutto, io vorrei sempre, sempre, e chi ha già fatto esami lo sa, per cui fatevelo raccontare, che l'esame fosse una conversazione. Venite sereni, perché, come dico sempre, le mie turbe psichiche le riverso altrove. Se sono depressa, non mi scateno su di voi, non c'è motivo, non avete colpe, per ora. Forse le avrete, ma per ora non le avete, per cui qualora invece io riversassi qualche mia frustrazione su di voi in seno di una sessione d'esami, immediatamente chiamate il 118, perché vuol dire che mi è saltata qualche sinapsi, perché non rientra proprio nelle mie abitudini. Raramente urlo durante gli esami, non lancio mai nulla, mai, non rientra proprio nelle mie abitudini, neanche in privato lancio le cose litigando, figuratevi in pubblico. E di conseguenza l'esame, per di più ad un biennio, deve essere proprio un momento di confronto tra di noi. Salvo rare eccezioni, ho più rughe di voi. Quindi ad ogni ruga corrispondono ore passate a leggere. È ovvio che voi non arriverete mai all'esame avendo letto tutto quello che ho letto io. Anche perché poi ognuno di voi ha gusti diversi, no? Ama magari altri periodi storici. Gli tocca fare moderna e viene qui con la lacrima all'occhio. Per cui non sarà mai un duello tra me e voi. Perché sarei veramente disonesta in questo, non siamo ad armi pari. Rientra nelle frustrazioni personali, non c'è motivo. Per cui voi farete del vostro meglio e io l'accoglierò con grande entusiasmo. Non dovete dimostrarmi niente, se non quello che vi è piaciuto davvero seguire durante il corso. Non è una sfida, non è una battaglia, l'esame per me è una conversazione, biennio, triennio che sia, ci mancherebbe. Come sarà in modo particolare questo esame? Se siete d'accordo, e ripeto, se siete d'accordo, l'esame potrà iniziare con un lavoro vostro. Non dovete venire con la tavoletta scolpita. Vostro nel senso che vi sceglierete un'opera del Rinascimento italiano e la confronterete con un'opera fiamminga, possibilmente di Bosch, tra quelle che io tratterò di Bosch o quelle che io non tratterò. Invece per quanto riguarda l'opera del Rinascimento italiano, quella per cortesia sceglietela tra quello che io non commento. Capite che per me sarebbe sufficiente questo già per valutarvi, perché a seconda di come analizzate, di come confrontate, io so già quanto avete letto, come avete frequentato. Ma siccome il professor Beatrice, che di solito mi affianca degli esami, vuole che interroghi sul serio, se mi sente mi odia per tutta la vita, oltre a questo parleremo anche di quanto ci siamo raccontati a lezione. Affronteremo ovviamente i testi e quello che io vi racconterò. Ma vi ripeto con grande serenità, qualora io considerassi la vostra preparazione insufficiente, non per me, ma per il vostro livello di studi, per quello che poi andrete a fare nella vita, vi auguro, vi inviterò a ritornare. Io non mando mai via, io invito a tornare. Non è un gioco di parole, è proprio un'altra cosa. Ogni volta che ritornate, se dovesse mai accadere, per uno strano motivo del destino, che dobbiate tornare più volte, sarà sempre come la prima volta. Non mi segno chi è già venuto e lo flagello doppiamente. Semplicemente non avevate approfondito, avevate studiato la materia in un modo che non è consono ad uno studente d'accademia. Tutto qui. Non è mia abitudine aprire i libri e chiedere che cosa c'è a pagina 24. Non è mai mia abitudine chiedere i contenuti dei capitoli. E tantomeno i contenuti dei paragrafi. Salvo situazioni particolari, che so, con il triennio quest'anno abbiamo adottato un determinato testo e chiedo proprio i capitoli. Perché? Perché sono dei filoni specifici, ma l'ho detto dalla prima lezione e ho continuato a ripeterlo. Qui non sarà così, non verrete interrogati su capitolo 18, pagina 127. Per questo basta la contabilità, noi qui facciamo altro. Ecco come funzionerà il corso e come funzionerà l'esame. Ma siccome vi angoscerà fino a dopo l'esame, ogni tanto ve lo ricorderò. Come fare questo confronto tra le opere? Lo fate, me lo date 15-20 giorni prima dell'esame ufficiale, lo leggo e vi dico se va bene o se va corretto. Verrà valutato il giorno dell'esame. Per cui se non va bene ve lo restituisco e vi chiedo di sistemarlo. Non c'è motivo se per poca esperienza, perché non è il periodo vostro, avete lavorato in un modo non corretto, io valuti il modo di lavorare e non il lavoro. Se c'è qualcosa da correggere lo correggiamo e verrà valutato in sede d'esame, non prima. Vi è chiaro? Tutto chiaro? Avete delle domande da fare? Le presenze, che di solito è un'altra cosa che vi preoccupa, le presenze io le controllo, le dato io, per cui le controllo ogni settimana, mi dispiace. È una cosa che mi hanno detto che devo fare, me l'ha detto il Ministero e io lo faccio. Avete la possibilità di mancare per un 20%, non solo da me, teoricamente da tutti, teoricamente, il che significa perdere 3 lezioni. Vi capitasse di doverne perdere di più perché vi ammalate? E alleghiamo certificato medico e siete giustificati. Capitasse qualche cosa di non previsto? Vi innamorate perdutamente di uno che sta frequentando contemporanea e potete dirmelo privatamente e troviamo una soluzione, non lo so, ce lo portiamo a Moderna, andiamo tutti a contemporanea, cioè una soluzione si trova, capite? Nel momento in cui c'è buon senso le soluzioni si trovano sempre, per cui non spaventatevi. Se vi capitasse di fare 4 assenze anziché 3, ne parliamo e troviamo una soluzione. Se un bimbo nasce, vi pare che pretendo che venga a lezione? Cioè, usiamo il buon senso. Per questo potete registrare le lezioni. perché così anche l'assente per vari motivi potrà serenamente subire la mia voce a casa, in bagno, in motorino, con l'iPod, eccetera. Quindi vi prego, venite a queste lezioni se avete voglia di venire a lezione, se vi piace venire a lezione. Perché questo dovrebbe essere sempre una lezione di storia dell'arte e non solo di storia dell'arte. Certo, ogni tanto dovrete ricordarmi che sto parlando da 2 ore. Chiedete tempo per andare ai servizi, per bere l'acqua e per fare pausa, per bere un caffè, perché potrei parlare per ore, ore, ore senza rendermene conto. Per cui quando qualcuno avrà dei mancamenti in avanti, prima di sbattere la testa, alzi la mano, sventoli un fazzoletto e mi faccia capire che è ora di bere caffè. D'accordo? Chi fosse arrivato dopo si faccia raccontare poi dagli altri, va bene? Che cosa, come abbiamo impostato, come sarà questo corso. È tutto chiaro? Avete problemi pertinenti alla materia da sottoporre, oltre all'accavallamento delle discipline? Nulla? È tutto chiaro per tutti? Prego. Il conflitto tra le opere. Sì. Cosa comprende? Cioè, cosa è che è importante all'interno di un confronto tra opere? Lo scoprirete man mano che faremo gli analisi, così vi accorgerete. Gli elementi comuni, naturalmente, e le differenze sostanziali, che so. Se l'opera si svolge in un interno, è ambientata in un interno o in un esterno, il tipo di prospettiva che viene utilizzata, la gamma cromatica, la tecnica che è stata utilizzata, la sovrapposizione di piani, le fonti letterarie, se sono le stesse o se sono differenti. Per esempio, parlando di Fiandre, parlando di pittura fiamminga, noi ci ritroveremo a dover, per forza di cose, parlare anche di quella che è l'interpretazione protestante di alcuni passi biblici, per esempio. E lì, se siamo nella linea cattolica, avremo dei determinati significati, se siamo nella linea protestante ne avremo altri. E questo sarà sostanziale, ma imparerete a vedere queste cose, altrimenti il corso non vi sarebbe servito proprio a niente. Per cui non preoccupatevi, e magari ne parliamo man mano che procede il corso su come impostare questo lavoro. Non è che da soli, al buio, nella notte, chiusi nella vostra stanza, dovrete proprio costruire una cosa che non si è mai vista al mondo. Ne parliamo. Anzi, l'orario di ricevimento esiste per questo, non per riempire il monte ore. E quindi approfittatene, se avete anche qualcosa di cui discutere o che non è stato chiaro, che vi è troppo complicato studiando, venite e vi aiuto volentieri. Mi pagano per questo, per cui io ci sarò, insomma. Io ci sarò, a proposito. Settimana Ventura è sessione di tesi, quindi per la gioia di chi ha tutta una serie di sovrapposizioni d'orario, non illudetevi, non sto per dirvi che non farò lezione, lezione la farò, soltanto che l'anticiperemo al lunedì, anziché fare lezione mercoledì, lo faremo lunedì. Se un'infilata di amici vostri si laureano, è ovvio che andate a sentire le lauree, vero? Problemi con la lezione? Non ci sono, io ho preso il mercoledì. Il martedì li ho presi proprio per i corsi. Ma sempre la tavola? No. No, potendo facciamo le 2:30, così magari pranzate umanamente. Lo so, l'abbiamo fatto apposta, lo so. No, ma non per le lauree, ma c'è anche il computer grafico che ha spostato la lezione per le lauree tipo a 1:00. Quindi è peggio di me. In quanti lunedì pomeriggio sareste occupati dalle 2:30 alle 5:30? Mezzo corso. E quando potremo recuperare rispetto alle vostre? Il mattino di lunedì? No, io sono in sessione di tesi. L'aula è occupata. Sentite, e se facessimo una cosa di questo tipo, se per, non so, due volte, tre volte allungassimo la lezione, sarebbe un disastro perché vi si accavalla con altre 8.500 materie. E come recuperiamo? Ma è fare di mattina anche, non la settimana prossima, ma quella dopo, piuttosto che allungarla, fare il mercoledì mattina e mercoledì a lunedì. Fare due lezioni, tipo, ovviamente separate. Sì. Separate, ben poi separate. Mangiamo e poi ripartiamo. Sì, venite col flebo di caffeina, però. Io non ho problemi in questo senso, Beh, noi ci continuiamo, perché abbiamo sempre il problema di fotografia e poi di blender al pomeriggio. Ma magari potremmo recuperarla, che so, ad aprile, quando tutti i corsi sono partiti, per esempio fotografia, capiamo che turni farà. Anche. Potrebbe essere? Per cui lunedì mi sollevate dal fare lezione? Mi tocca ascoltare tutte le tesi del mondo? Ci sto. Va bene, allora se dite possiamo fare così, lo terremo magari il mercoledì. Lei signora, come è organizzata il mercoledì mattina? È occupata? Ma io potrei anticipare solo un'ora, tutta la mattina e pomeriggio non posso. Poi magari appunto ci si organizza con una registrazione eventualmente, così di fatto non perdete niente. Quindi magari aspettiamo, facciamo partire fotografia, capiamo come sarete ripartiti, perché sicuramente vi divide in gruppi, sicuramente, lo fa sempre. Oh, sì, perché sì. Dovevo iniziare stamattina, da quanto, però poi non c'era, perché non so dov'è, e c'era già un po'. Non so dov'è, poveretto, è in Erasmus, non so dov'è, sta lavorando, sì sì, e quindi inizia la settimana avventura. Dovrebbe essere assente anche domani, però sì, vero? Sì, inizia tutto settimana. Infatti, prego. E quindi poi i testi ci darebbe ancora la settimana successiva. Ah già, hai ragione. C'è un modo per sentirci in modo più. Allora, guardate, considerato il sito dell'Accademia, dove noi non possiamo mai avere libero accesso, Facebook è fantastico. Io ho una pagina Facebook, mi chiamo con il mio nome e il mio cognome, per cui è un attimo a trovarmi, e lì di solito metto tutte le novità, così come scrivo sulla pagina Facebook dell'Accademia, che è accessibile. Inoltre ho pure un'email che non è segretata, potete scrivermi. Anche chi non è iscritto a Facebook può guardare questa pagina oppure no? Non ne ho idea, la mia forse no. Dipende se il profilo pubblico o privato. No, non è pubblico. Però io scrivo su quello dell'Accademia, che dovrebbe essere pubblico, se non vado errato. E quindi tutti potete leggere lì. Per cui le notizie che io scrivo pertinenti al corso sulla pagina Facebook, che però uso come pagina Facebook, per cui c'è un po' di tutto, quelle ufficiali le riporto sempre anche sulla pagina dell'Accademia. Sì, se volete. Sì, sì. Se dovete scrivermi privatamente, personalmente, e non volete usare Facebook, cosa che apprezzo sempre, usate la mia email. È facilissima, forse l'ho riportata, l'ho riportata nei programmi, che nessuno mi ha mai pubblicato ancora. Per cui stiamo ancora attendendo quelli del primo semestre. È L Michelangeli, solo L di Licia, senza punti, senza virgola, è indifferente, maiuscolo o minuscola non cambia più. L Michelangeli@iol.it Se avete problemi pertinenti al corso, mi scrivete e vediamo di risolvere le cose, d'accordo? Ma anche se avete dei dubbi o altre cose potete scrivermi, la uso apposta. E anche la pagina Facebook ce l'ho, non per le mie amiche del cuore, che gestisco diversamente da molti anni. Ma la uso soprattutto per gli studenti, è anche un modo per parlarci a distanza anche in ore poco accademiche, no? A volte è molto più semplice. È tutto chiaro? Altre cose da chiedere? devo rassegnarmi all'idea che ho vacanza la prossima settimana, non ci sono abituata. Va bene, allora se siete d'accordo proprio iniziamo ad entrare nel merito della materia. Oh, l'arte fiamminga, cos'è l'arte fiamminga? Perché sembra sempre un UFO atterrato nella storia dell'arte, sembra qualche cosa di assolutamente separato. Tenete conto di una cosa basilare: a dettare legge sul gusto in quest'epoca, e siamo alla fine del 1300, sono sostanzialmente due grandi scuole, alle quali poi afferiscono tutta una serie di altre scuole. Quella nordica, che può essere divisa in scuola francese e scuola tedesca, e quella italiana. E quando dico gusto, intendo proprio il gusto nel senso più ampio del termine, dalla storia del costume alla storia della moda, alla storia dell'arte, alla storia delle arti applicate, per tutta una serie di motivi. Uno dei motivi principali sarà, da un lato, il credo religioso, che da questo periodo serenamente possiamo chiamare cattolicesimo, prima no, cattolicesimo o culto musulmano o culto ebraico, per cui il credo religioso influenzerà moltissimo le arti, e vi ripeto, proprio in senso ampio, dalle arti applicate fino al costume, fino alla pala d'altare, là dove la religione la metta la pala d'altare, da un lato, e dall'altro a dettare legge sulle arti sarà il potere politico. Per cui religione da una parte e politica dall'altra. E fate molta attenzione. Perché? Perché l'artista del periodo storico di cui noi stiamo parlando non è affatto libero, non fa quello che vuole, non crea con l'idea vincente che gli è venuta al mattino sotto la doccia. Questo accadrà per alcuni aspetti, mai in modo totale, da dopo il romanticismo. Tutto ciò che noi vedremo prima dell'epoca romantica è sempre guidato, legato alla sfera politica e alla sfera religiosa. Le Fiandre saranno, per tutta una serie di situazioni particolarissime, terreno di battaglia acerrima per quanto riguarda la religione. E questo consentirà agli artisti, se volete, di essere parzialmente più liberi, perché potranno scegliere da che parte stare. Un artista fiorentino potrà scegliere soltanto se stare con i Medici o contro i Medici, ma il gusto imperante a Firenze è uno soltanto. Nelle Fiandre questo non accade. Nelle Fiandre, avendo tutta una serie di spinte in seno al cattolicesimo, avendo anche una situazione politica da un certo punto in poi assolutamente stabile dopo la guerra dei cent'anni, ci si ritroverà in un certo senso ad avere una serie di situazioni nuove, diverse, dove il potere politico sarà assolutamente più blando, meno invadente, meno presente. da un lato. Dall'altro, il potere politico nelle Fiandre utilizzerà i propri artisti come biglietto da visita, come figure di rappresentanza. E questo, capite, conferirà alla figura dell'artista un'importanza centrale, vitale. Nella maggior parte delle situazioni, invece, noi dobbiamo rassegnarci, per quanto si sia passati per il romanticismo, a pensare a degli artisti che sono per forza al soldo di qualcuno. Nella bottega si crea, si inventa, e parlo di bottega, vero? Per cui non è un artista. Abbiamo un caposcuola e un gruppo di artisti che collaborano a vari livelli. Si parte dal ragazzo che macina il colore, che tritura il colore, fino a chi può realizzare i dettagli del volto, che solitamente era la cosa più complicata e lo faceva il capo bottega. Sono, per quanto poi la firma sia di uno soltanto, lavori d'équipe, quasi sempre. La bottega non ha soltanto il capo mastro a comandarla, ha anche il signore che sceglie una bottega anziché un'altra a fare la differenza. La committenza. Chi paga, in un certo senso, decide le sorti della bottega. Capite che se io sono un capomastro, e per capomastro intendo, che ne so, Masaccio, d'accordo? Un grande maestro, che dentro la propria bottega ha una serie di ragazzi che imparano a triturare il colore, imparano a disegnare, imparano a dipingere, imparano a dorare. E non ho un rapporto felice con il signore della città nella quale lavoro, io chiudo bottega, muoio di fame. Quindi, sul mio gusto personale, avrà la meglio il gusto del signore per il quale lavoro. Questa è una cosa che solitamente si dimentica. E oltre a questo, un peso incredibile, incredibile, l'avrà non tanto il signore in sé, quanto piuttosto l'entourage culturale del signore, il letterato di corte, il poeta di corte, il filosofo di corte. Perché? Perché l'uomo di lettere o l'uomo di filosofia è chi conosce gli argomenti. Va dal capomastro e dice come vuole le cose. Dove deve essere posizionato il santo? Dove deve essere posizionato il signore ritratto nell'opera? Che tipo di colori devono essere utilizzati? Ovviamente i colori del casato avranno un peso incredibile all'interno delle opere. Quindi la libertà di Masaccio, ed è un esempio che vi sto facendo, non è la libertà che potete avere voi davanti ad una tela oggi, è tutta un'altra situazione. E anche voi, entrati nel circuito dell'arte, del mercato dell'arte, sarete comunque condizionati in parte dal vostro mercante. Io non li chiamo galleristi, io li chiamo mercanti, perché questo sono. E a seconda di come tira il mercato, vi consiglieranno di lavorare in un modo o di lavorare in un altro. Quindi, completamente liberi, non lo sarete neanche voi, probabilmente, andando avanti nell'arte. In più, nel periodo storico che noi trattiamo, al potere forte, totalitario del signore di una città o di un feudo o di un re, peggio ancora, dovremmo affiancare sempre la matrice religiosa, che è pesantissima, che è importantissima. Secondo, volevo fare una domanda. A proposito di politica, lei pensa ancora che la politica influenzerà anche al giorno? Io penso che la politica censuri l'arte in molte situazioni, che non è influenzarla, perché influenzarla significherebbe avere un pensiero, no? Io influenzo qualcuno se ho un pensiero forte e glielo propongo in una democrazia, o glielo impongo se sono in una dittatura. Secondo me in Europa e anche negli Stati Uniti d'America, più che influenzare e condizionare, si censura, e quindi alcuni artisti proprio non vendono, non perché non siano bravi o le opere non siano interessanti, ma perché non sono convenienti. Assolutamente sì. Anzi, più famosi si diventa, più si entra in un determinato circuito. La fama non dà libertà, di solito esattamente il contrario. Ma qui apriremo, ovvero, una voragine infinita di confronto. Vi dicevo, l'altro elemento che dobbiamo sempre tenere presente, sempre, in questo periodo storico... Scusi, ho detto che censura di più adesso il potere politico in Europa e negli Stati Uniti, negli altri no? Beh, là dove siano democrazie, teoricamente molto meno. Penso appunto al Nord Europa, penso alla realtà scandinava, la situazione è completamente diversa rispetto a noi, completamente, ma tanto diversa, proprio per una questione di mercati. Guardate che alla fine a decidere anche chi diventa famoso sono tre mercanti, due europei e un americano, punto. Per cui anche a decidere chi espone a Colonia o chi espone a Basilea o chi espone a New York sono tre persone, e potremmo anche farne i nomi. Certo, là dove ci siano delle dittature, l'arte cinese, per esempio, le grandi fiere cinesi hanno ovviamente un'impronta assolutamente legata ad un credo politico. È il grosso problema che sta vivendo l'arte russa in questi ultimi 10 anni, uscita da una dittatura che li ha proprio incanalati assolutamente sull'arte figurativa, venuta meno quella dittatura, all'improvviso l'arte astratta è esplosa, ma per assurdo loro in nessun museo hanno un Kandinsky appeso, o meglio, Kandinsky sì, ma Malevich no. Per cui diciamo l'arte che fu la matrice della rivoluzione russa, in Russia ancora non è appesa alle pareti dei musei. Appartiene ai musei che prestano quelle opere a noi per costruire le mostre, ma nei musei russi quelle opere non sono rese pubbliche. Quindi il potere politico ancora oggi ha un peso enorme. E se lei ci pensa, insomma, dalla caduta del muro, dalla perestroica in modo particolare, artisticamente molte cose avrebbero dovuto cambiare in Russia. Sì, sono cambiate dentro l'Accademia di Belle Arti, perché molti di quei maestri conoscono bene l'Occidente, hanno studiato in Occidente, e quindi hanno aperto ai propri artisti, ai propri allievi, l'astrattismo o l'arte concettuale, ma non è ancora riconosciuta a livello ufficiale. Per cui se lei va al Museo Russo di Stato, va al Trezhakov o al Pushkin, lei vedrà impressionisti da togliere il fiato, collezioni legate a Matisse da togliere il fiato, ma non vedrà un solo Larionov, un quadro della Goncharova o un Malevich. E magari loro custodiscono e sono proprietari di centinaia di queste opere che restano nei depositi. Per cui sì, la politica ha ancora, secondo me, un peso importantissimo. Pensate solo, no? Per esempio, a chi espone alla Triennale di Cuba. Sono tutti artisti di un certo credo politico, legati a doppio filo ad un credo politico a prescindere dalle loro capacità tecniche. Per cui è molto molto complicato capire in diretta dal vivo cosa è buono e cosa no, perché non possiamo vedere tutto, perché è già stato selezionato, setacciato all'origine più volte. Ma questa è una mia opinione, vero? Voi naturalmente potete pensare in modo completamente diverso da me, ci mancherebbe altro, anzi. Vi dicevo, l'altra matrice per quanto riguarda l'epoca che trattiamo nel corso sarà quella religiosa, che avrà un peso enorme, perché è vero che siamo usciti dal Medioevo e che quindi l'umanesimo sta prendendo piede, si sta alimentando, si sta coltivando a partire proprio dall'Italia a macchia d'olio in tutta l'Europa dell'epoca. Per questo parliamo anche di rinascimento, no? Il ritorno allo studio del classico, alla traduzione del latino, dei testi greci, all'accettazione in alcune corti, non in tutte, dei testi arabi, del sapere matematico soprattutto e astronomico arabo, preziosissimo, avanti anni luce rispetto a quello che era l'Italia dell'epoca. Ma la fede ancora pesa tantissimo. Ancora fa la differenza. Di conseguenza noi vedremo che l'abate, per esempio, o il vescovo o gli alti prelati avranno un peso sostanziale sulla scelta delle opere o sulla non esposizione delle opere. Lo stesso Caravaggio realizzò tutta una serie di opere su commissione che non rispettarono il volere dell'intellettuale del vescovado, ovviamente uomo di chiesa, e le opere non vennero mai appese all'interno della chiesa, ma opere famosissime, censurate perché non in linea con il pensiero ecclesiastico. La Cappella Sistina venne vegliata passo passo. Non è che Michelangelo si inventò la disposizione di santi, sibille e quant'altro. Vi erano un gruppo di intellettuali che controllava con grande attenzione e suggeriva a Michelangelo come posizionare i vari personaggi e come anche affrontarli, cioè metterli uno di fronte all'altro. Avevamo a che fare con un genio e con un uomo di infinito sapere, che se ne dica, e quindi si divertì in molte situazioni anche a prendersi gioco di questi intellettuali, che molto probabilmente erano molto meno colti di lui, intervenendo soprattutto con quello che era il suo profondissimo sapere, per esempio, del credo ebraico. Ovvio che un uomo cresciuto dentro il cattolicesimo, allevato per diventare cardinale, perché, che so, terzogenito di una famiglia aristocratica, nulla sapeva del credo ebraico, perché non ne aveva avuto proprio pertinenza, conoscenza, non ne era entrato in contatto. E di conseguenza, soprattutto in Cappella Sistina, noi abbiamo tutta una serie di simbologie legate soprattutto al colore che appartengono al mondo ebraico e che Michelangelo riuscì ad inserire perché chi vegliava su di lui poco sapeva di ebraismo. Così come in molte altre situazioni accadde con il sapere arabo, proprio perché a vegliare su determinate situazioni erano cattolici doc, che di credo islamico non sapevano assolutamente niente. E magari l'artista curioso, magari anche un po' randagio, no? Che magari di notte frequentava taverne, locande, dove culture, religioni e regole, leggi, diventano offuscate, possono mescolarsi, ne sapeva di più, perché aveva visto, perché aveva parlato, perché segretamente aveva letto, aveva studiato libri proibiti, per esempio. Altro elemento da tenere presente, la censura sui libri, l'indice. Dal Concilio di Trento in poi, la Chiesa cattolica redigerà un indice. Cos'è quest'indice? È l'elenco di libri proibiti ai credenti. Sono una serie di testi che oggi a volte ci fanno anche sorridere, ma che inducevano alla confessione. Chi avesse letto uno di quei libri, e guardate che era difficilissimo comunque trovarli, perché nel momento in cui un libro veniva messo all'indice andava automaticamente bruciato, per cui se ne conserviamo degli esemplari, e grazie proprio a chi trasgredì la regola e segretamente continuò a copiare questi testi, a tramandare questi testi, era in peccato mortale, doveva confessarsi. Di conseguenza rischiava di non ricevere i sacramenti, che oggi è una libera scelta. All'epoca significava proprio essere bollati a livello sociale. Chi non faceva la comunione la domenica era additato per tutta la settimana dalla comunità. Chi perdeva messa doveva giustificarsi in un certo senso davanti alla comunità, non era in grazia di Dio. Chi non riceveva l'assoluzione durante la confessione, perché magari aveva letto alcuni di questi testi o aveva trasgredito alla regola, non aveva diritto a tutta una serie di cose e di situazioni. Gli affitti dei terreni, per esempio, erano fortemente vincolati, pensate un po', all'integrità religiosa della persona. La possibilità di entrare in una congregazione di lavori, per cui a bottega, o di appartenere ad un albo, che so, dello scalpellino, del pescivendolo, del fruttivendolo, eccetera, dovevano essere persone non solo brave nel proprio mestiere, ma in grazia di Dio. Per cui la religione ha un peso enorme sulla vita sociale, oltre che sull'arte. È proprio paradigma mentale anche degli artisti stessi che dice, Caravaggio era profondamente religioso, nonostante poi avesse fatto delle opere che... Per forza. È un po', no, come se voi, anziché crescere in una situazione laica, avendo magari per compagno di banco un bimbo che viene dal Ghana e che è musulmano e che quindi non mangia prosciutto, foste invece cresciuti in un monastero, educati solo da uomini ecclesiastici. Capite che l'educazione sarebbe completamente diversa, e anche il modo di pensare, e anche il modo di concepire l'errore, il peccato, la mancanza e quant'altro. Soprattutto voi, rispetto a me, che non ho avuto proprio per generazione credi diversi, se non da una certa età in poi, accanto. Ma nelle vostre scuole, immagino, ci sia stato almeno un bimbo che era, se non musulmano, testimone di Geova, o ebreo. E io vedo i miei figli ugualmente, insomma, sono classi multietniche, a meno che non si scelga la scuola cattolica, allora il discorso è diverso. Ma anche la scuola cattolica oggi comunque ha un'apertura rispetto a 50 anni fa, a 100 anni fa, infinitamente superiore, per poter sopravvivere anche, no, in una comunità ormai multiraziale. Noi dobbiamo dimenticarci per certi aspetti questo e immaginare che ci fosse un solo modo di essere educati e di essere cresciuti, che era quello cattolico. Le Fiandre, vi ripeto, vivranno una situazione borderline, e per questo artisticamente sono interessantissime. Non solo le Fiandre, se ci pensate, anche Venezia ha sempre vissuto una situazione borderline, per forza, perché Venezia, e non a caso poi durante il corso parleremo proprio di un rapporto strettissimo tra Venezia e le Fiandre, è sempre stata la porta verso Oriente, e quindi Venezia ha sempre avuto rapporti con un altro credo religioso. Infatti, per esempio, Venezia non ha mai avuto un re. Venezia è sempre stata una libera repubblica, per l'epoca naturalmente, quindi gestita non dal popolo ma da un'oligarchia, cioè da un gruppo di famiglie. E anche qui ricordatevi che l'aristocrazia veneziana non è un'aristocrazia per titolo, non sono duchi, baroni e principi. I patrizi veneziani sono mercanti, e quindi il nobile veneziano è tale non per blasone, ma per denaro. Tanto più è ricco, tanto più vale. Il patrizio europeo dell'epoca, invece, penso per esempio al patriziato spagnolo, che poi influenzerà tutto il nostro Sud Italia, è un patriziato per titolo. Si nasce principi, si nasce duchi, si nasce baroni e si tramanda il titolo ai propri figli. Il patriziato veneto, e si rimane patrizi sia che si sia ricchi sia che si sia poveri, vero? Possono capitare delle situazioni in cui si perdono i terreni perché in guerra i propri terreni diventano bottino del nemico, ma non si perde il titolo nobiliare, si resta aristocratici e si viene aiutati dalla corona per questo, si viene supportati. Il patriziato veneto resta patriziato se ha i soldi, altrimenti non è patrizio, non vota il doge, non decide chi comanda Venezia. Per cui il patrizio veneto è costantemente in corsa, deve costantemente dimostrare di avere il patrimonio per poter essere signore di Venezia. E questo indurrà i veneziani a non dar peso alla religione, tanto che Venezia sarà sempre terra priva di regole romane. Sarà sempre la grande antagonista, il controcanto di Roma. Tutto ciò che la Chiesa romana vieta, Venezia permette. Il teatro pubblico, le donne in scena, un certo tipo di abiti molto scollati, perché Venezia ha un respiro internazionale. Venezia verrà anche scomunicata, continuerà in modo assolutamente indifferente i propri commerci. Ai veneziani interessa fare affari. Dio benedice gli affari? Benissimo. Dio non benedice gli affari? Pazienza. Questa è la filosofia veneziana dalla fine del 1200 in poi. E vi ripeto, moltissime leggi, regole, soprattutto legate all'arte, imposte a tutta la penisola italiana e oltre, a Venezia non faranno testo. Sarà proprio terra neutrale. Da qui anche molti pensatori potranno trovare rifugio a Venezia. Coloro che vennero, per esempio, tacciati d'eresia a Venezia, soprattutto nel 500, avranno protezione, se ricchi e famosi, ovviamente. Altrimenti verranno bolliti nella pece anche a Venezia. Per cui capite che a seconda di dove siamo, tutto cambia o tutto resta uguale. Dipende da tutta una serie di situazioni. Venezia commercia con l'Oriente, con la Cina per quanto riguarda la seta, con Costantinopoli per quanto concerne i tappeti e i manufatti, e Venezia si specializza proprio nella materia prima per creare i tessuti, seta da una parte e lana dall'altra. Fa affari con, vi ripeto, religioni diverse. Venezia è il più grande porto di tutto il Mediterraneo. È stata, dipende sempre dal periodo di cui parliamo, Repubblica Marinara, tanto quanto Pisa, economicamente forte quanto Palermo, ricchissima proprio a fine 200. Ma rispetto a queste città ha veramente l'apertura verso il Medio Oriente. Può gestire commerci per mare e per terra. Palermo no, solo per mare. Pisa per mare e parzialmente per terra. Parzialmente perché poi ha tutta una serie di altre città con altri signori che sono solitamente antagonisti. Non ha la libertà di azione di Venezia, assolutamente. Cosa Venezia in comune con le Fiandre? Il fatto che le Fiandre saranno, soprattutto dalla seconda metà del 1400, le vere antagoniste di Venezia. Perché? Perché i porti, soprattutto il porto di Amsterdam, sarà il trampolino per le Americhe, dopo ovviamente la consapevolezza d'aver scoperto le Americhe. E porterà via Venezia moltissimo dei mercati, dei commerci, mai l'Oriente però. E quindi capite che in presenza di un grande porto abbiamo inevitabilmente anche un'apertura di vedute maggiori, perché si incontrano altre culture, perché si incontrano modi di parlare differenti, perché bisogna trovare un mezzo per farsi capire. Per vendere a chiunque io devo poter parlare più lingue, oppure devo poter utilizzare un linguaggio che funzioni anche se non parlo la stessa lingua. Gli olandesi saranno bravissimi in questo. Ecco che allora il bacino delle Fiandre diventa veramente un luogo preziosissimo. E in più metteteci che le Fiandre saranno costantemente anche luogo di conquista da parte della Spagna, da parte della Francia, da parte della Germania, in parte anche dell'Inghilterra, con varie intromissioni, attraverso naturalmente la Bretagna, sconfinamenti, piraterie. E mettiamoci che le Fiandre rispetto a Venezia hanno un privilegio: tecnologicamente sono più avanzate. Forse la prima vera rivoluzione industriale avviene nel 1300, quando proprio nelle Fiandre si inventa un nuovo tipo di telaio a doppia battitura. E qui non stiamo a dirci come è fatto questo telaio, perché sennò ci perdiamo nei meandri tecnici. È un telaio meccanico. Quello che si può fare con un telaio verticale, cioè con i telai che tutte le nonne hanno insegnato alle proprie figlie e poi alle proprie nipoti ad utilizzare per fare le lenzuola, per esempio, o per fare i tessuti per gli abiti, può essere gestito parzialmente anche a livello meccanico, utilizzando il piede, non solo le mani, e quindi producendo da subito tre volte di più, andando tre volte più veloce. Nessuno riesce a copiare i telai costruiti nelle Fiandre. Ovviamente, vero, ci sono tutta una serie di segreti, di anche capacità manuali. Caspita, è la binata perfetta. Le Fiandre producono i telai per la tessitura, Venezia è il maggior mercato di filami, lana e seta. Dalla fine del 1300 per tutto il Rinascimento vi sarà proprio un'asse straordinaria Fiandre-Venezia, di libero scambio e soprattutto di libero commercio. E fate attenzione, e poi vi lascio prendere un caffè. Fate attenzione, perché quando in epoca rinascimentale diciamo mercato, non intendiamo merci che viaggiano autonomamente, è troppo pericoloso. Non è come oggi che io preparo un container, lo sigillo, lo carico sul tir oppure sulla treno e lo mando. È un problema di bolle di consegna e di versamenti di denaro, no, alla fine. Non funziona così nel Rinascimento. È il proprietario che accompagna il materiale. Il mercante che ha acquistato la seta accompagna la seta nelle Fiandre, perché non si fida. E quando si sposta, ricordatevelo sempre, non si sposta da solo, si sposta con delle guardie armate che difendono la mercanzia e si sposta con quella che impropriamente possiamo considerare una piccola corte, perché i viaggi sono lunghi e perché è comunque un uomo agiato. Quindi, quando si sposta un mercante, nel proprio seguito avrà i servitori che accudiscono lui e che accudiscono anche le guardie, per cui che fanno da mangiare, che tengono puliti gli stivali, che lucidano le armi eventualmente. Avremmo molto probabilmente delle prostitute, perché parlano la stessa lingua, si capiscono, non si rischia con le prostitute da altri luoghi, e avremmo sicuramente dei musicisti. Cosa fate voi quando viaggiate? Non ascoltate musica? E cosa vi fa pensare che non lo facessero anche nel Rinascimento? La differenza è che non si può andare con un compact disc o non si può andare con un iPod. Ci si porta i musicisti, fisicamente, che suonano, che cantano e che danzano. Intrattengono il Signore la sera o nei momenti di noia. Se viaggia su un carro coperto, il che significa che è ricchissimo, avrà sicuramente un uomo di lettere che lo accompagna, che gli legge dei racconti. Nascono così, per esempio, tutta una serie di libri da bisaccia, quelli che noi oggi chiamiamo i tascabili, perché sono agili da portare, sono poco preziosi, non hanno pietre nelle copertine, possono essere rubati in qualsiasi momento. Non sono libri stampati, vero? La stampa ancora non c'è, non esiste. Sono scritti a mano, costano. E non sono su carta, vi prego. Non c'è la carta nel 1300 in Europa. È tutta pergamena. Quindi è doppiamente preziosa, è carissima. Cos'è la pergamena, lo sapete tutti? Qualcuno non lo sa? Può dirlo tranquillamente. Tutti sapete cos'è la pergamena? Siamo sicuri? Sono le pelli animali. Sì, sono pelli di pecora o di agnello. La pelle d'agnello è preziosissima, carissima. Trattate in un determinato modo, conciate, per cui veramente costa tanto un libro. E capite che il mercante, quindi, che si sposta, quando arriva a vendere la merce, a seconda di quanta gente ha con sé, dimostra il proprio potere. Perché se sono un piccolo mercante, ho tre uomini che proteggono la mercanzia, due musici e uno che sa leggere. Cioè, capite che sul grande mercato mi spendo male come immagine. Se invece viaggiando io ho 10 musici, 3 uomini di lettere e 20 uomini armati, quando io arrivo ad Amsterdam, Amsterdam sa già che sto arrivando, perché sposto un gruppo considerevole di persone. E quindi non è solo una questione di intrattenimento, è anche e soprattutto una questione di immagine. Chi orna i libri? I pittori. Come mi confronto nel momento in cui io, mercante veneziano, lascio Venezia e arrivo ad Amsterdam? Scambiando gli artisti. I miei musicisti posso anche lasciarli ad Amsterdam, a casa del mercante che mi ha comperato la merce. E lui in cambio mi dà i suoi musicisti, che io me li porto a Venezia. E Venezia ascolterà una musica che non ha ancora ascoltato. Leggerà dei testi che ancora non ha letto, in latino naturalmente, quindi in una lingua franca, che funziona ovunque io sia in Europa, perché è la stessa, con qualche termine che cambia, ma in linea di massima è la stessa lingua. perché quello scritto non è quello parlato, è ancora quello latino classico o parzialmente classico. E quindi ci sarà anche uno scambio di libri. E il passo con lo scambio di pittori è brevissimo. Perché c'è questo scambio? Cioè, capiscono il potenziale del... Pensate un po', facciamo finta che voi per anni abbiate ascoltato solo cantautori italiani. All'improvviso... Perché non so come possono leggere... Il latino? Ah, no. Si scrive in latino. Siamo nel 1300, dobbiamo aspettare un po' perché ci sia questa grande apertura in tutta Europa verso il volgare. L'Italia vive una situazione particolarissima per quanto riguarda la lingua, allucinante, perché poi ogni area geografica avrà un proprio volgare e quindi si inizierà a non capirsi più. Ma tutto quello che è lo scritto alto, le ricerche scientifiche, il pensiero filosofico, vengono tutti scritti in latino classico fino al 1700, e questo permette proprio di avere una lingua franca dove magari io non lo so più parlare quel latino, ma lo so scrivere ancora. Non tutti, vero? Solo pochissimi, però tutti scrivono nello stesso latino. Ecco che un testo scritto a Bari può con grande disinvoltura essere letto a Oporto. Vi rendete conto di cosa abbiamo perso? Di conseguenza, lo scambio è incredibilmente facilitato e incredibilmente superiore a quello che abbiamo noi oggi. Il fatto che andassero a cavallo non significa proprio niente. Le opere d'arte viaggiavano in modo incredibile. Perché? Perché l'uomo di lettere che cosa fa? Vede una pala d'altare ad Amsterdam, o se volete a Bruges o a Bruxelles, sconvolgente, di una bellezza incredibile, e pratica l'ekphasis, cioè ne fa una descrizione scritta e compra sul mercato magari un disegno o una copia su pergamena o su tavolette da viaggio, non a caso da viaggio, che porterà con sé in Italia. Ecco che le novità delle Fiandre arrivano, non dico in diretta, ma quasi a Venezia e viceversa. I mercanti che vengono a Venezia, a Verona, a Firenze, a Napoli, a Palermo, a Bari, siamo tra l'altro nel momento in cui nascono le grandi università, vero? Nel 300, porta e porta via copie delle opere d'arte in formato tascabile, cioè le nostre riproduzioni fotografiche. Qual è la differenza? Che sono capolavori le copie, e che a volte la copia è addirittura più bella dell'originale, e che quindi si impazzisce a decidere che cosa è originale e che cosa è copia dell'originale, ma contemporaneo. Per cui non pensiate a questo periodo storico come un mondo in cui si fa solo la guerra e in cui grandi artisti, pochi, dipingono autonomamente non sapendo niente di che cosa accade in Europa, perché è esattamente il contrario. E poiché l'artista è proprio una sorta di servo, nel senso che serve al Signore e che vive assolutamente del denaro che riceve dal Signore, deve costantemente essere aggiornato su quello che accade nelle altre corti. Siamo in un periodo in cui la corte si sta costituendo e si è costituita, e questo comporta una serie di cose, ma ve ne parlo tra 15 minuti perché siete stanchi. Per cui caffè, chi vuole fumare scende, non fuma nei bagni per due motivi: A, è vietato e le regole cerchiamo di applicarle; B, tutto l'odore del fumo entra in quest'aula. Io devo parlare ancora per un po', se potete evitare grazie. e poi prendete un po' d'aria, scendete. Non ho idea, l'unica volta che io l'ho fatto gli ho cancellato tutto. Forse le lascio il foglio prima e vado all'altra lezione. Anch'io. No, che stretto. Mi dispiace. Io devo prendere il foglio prima. Anch'io, uguale. Sono organizzata la settimana scorsa. Purtroppo sarà sempre così. Mi dispiace. Magari vi organizzate, registrate o vi fate passare gli appunti, vedete voi. Oh, guardate che oggi che parlo così tanto, in realtà poi vedremo opere. Appunto, volevo dire che probabilmente per le 3:30 quasi sempre dovrei scappare fino alle 4. Vai, non preoccuparti, poi fermerete prima. Avrei bisogno anche del foglio. Certo. Grazie mille. Quindi possiamo prendere ognuno un foglio. Sì, ognuno ha un suo foglio. Grazie. Tutti avete ricevuto il foglio di presenza? Compilate per favore mettendo la scuola di appartenenza. Grazie. Infatti adesso me l'hanno fatta mettere la storia dell'arte moderna e medievale con lei. Perfetto. Me l'hanno accettata, invece l'altra non me l'hanno accettata quella di lei. E per forza, perché era triennio. Ma no, non può darla quella. No, perché no? Era giusto, gliel'avevo detto, no? Assolutamente, biennio, seguì corsi di biennio. Perché la cognata ha detto che noi potevamo presentare qualsiasi cosa, neanche quello con la cognata posso dare. No, io li volevo dare sia con lei che con perché no, sono lo studi fare. Diversi. Lo so, però lo potete fare proprio. Accidenti. Grazie. Grazie. Certo. Questo è limitativo però perché la storia dell'arte è grande. No, assolutamente, questo è corretto perché comunque lavoriamo in modo diverso al triennio e al biennio. Ah, che sia così. Assolutamente. Ah, quindi è normale? Perché... Assolutamente sì. Sì, è così che si fa. Anche se la storia dell'arte... È... Ce la fai a seguire con la lingua? Riesci con l'italiano? Sì, ma non è tutto. Vorrei che dopo la lezione c'era un consiglio per leggere qualche libro, così quanto studio qui. È più facile per seguirlo. Certo, certo, io però non te lo posso dire adesso. Mm. Cerco qualche cosa di facile per potervelo consigliare, magari alla prossima lezione. Ok. D'accordo? Vuole cambiare orario per lezione? Non so se riesco, poi parlo con la professoressa Roberto e vedo. Ok. Credo di no. Quindi la prossima... La prossima non sarà mercoledì prossimo, perché abbiamo le tesi, sarà tra 15 giorni. Ah! Oh. Poi lo ripeto però. Ok. Grazie. Prego. Il foglio di ieri lo compilò, però questo è la moderna. Qui. Ho messo la data anche. Settimana prossima. Non dovevo mettere, però dico messo la data. No, bel qui, prima si risponde. Ah, si può mettere? Sì, perché adesso mi sono ricordata. Come va per il 3? Insomma, un po' faticata. È finita la nostra mostra al circolo. Come è andata? È bene, mi hanno fatto un articolo sul giornale, però non trovo il giornale. Dove, come faccio per... Non ho idea. Lo posso stampare da internet, visto che... Ah, questo sì. Perché adesso è il secondo articolo che ho di giornale. Bene. E quindi me li voglio tutti tenere per insegnare qua. Perché mi hanno detto che posso insegnare qua quando ce la mostre, vero? Beh, mi servono... tante mostre. Ah, ha fatto le mostre così ora puoi insegnare qua, mi hanno detto. Tante ne servono però. Ah, non aveva detto Pino, mi fa sì sì, fai le mostre, ti insegni quella. Fra due anni ti laurea e insegni qua. Allora, perché no? Così va. Poi fai il concorso, perché la laurea ti. La laurea con voti abbastanza. Ma è l'inizio ti la laurea, no? Inizia. Quella di 5 anni serve per insegnare, quella di 3 anni. Con quella di 5 puoi insegnare. Sì, certo. Allora io sono contenta perché fra 2 anni gli avevo detto che insegnerò all'Accademia. E mia mamma però ha detto, mamma come sei illusa, ma lei non ci crede che beh, vabbè, insegnare. Non ci prova. Come non ci credi? Mamma ha detto, ho fatto anche delle mosse, sto facendo anche delle mosse. Speriamo in bene. Perché lei quando si è laureata è vero che è subito insegnato? Io? No. Ah no? No, no. Ah, no, non è così. No, non è così. Io neanche pensavo di insegnare, tra l'altro. No, non è così. Pensavo che, no, che fosse no. Automatica. No, io ho voluto fare altro. Allora in bocca al lupo che insegna. Però che, perché è bello. Così abbiamo un insegnante valida perché spiega tanti periodi, non è che solo la storia della... Spiega tante cose. Una impara cose nuove. Perché anch'io sono sicura che i saperi sono uniti, non staccati. Ci si prova. Ciao. Certo che vi hanno messo le sedie, siete tutti pigiati, di solito sono non più di 5 per fila, poi eventualmente lo dico alla signora, ce li facciamo risistemare. O la settimana prossima me le sistemo io. Perché così siete proprio uno addosso all'altro. Se adesso inizia ad esserci anche un po' di caldo non va bene. Cosa fa di bello nella vita? Io organizzo dei corsi, disegno tecniche di disegno e pittura in un'associazione culturale. Bello, bellissimo. E quindi qui per la specialistica? Sì, avevo finito 4 anni, però mi serviva una cosa e non mi sapevano dirmi se il diploma dei 4 anni e come poteva essere equiparato ai 5, alla fine mi hanno detto di iscrivermi. Poi mi hanno detto che forse sarebbe stato uguale, però adesso cerco di finire, tanto mi hanno abbonato un po' di esami che beh, erano certo. Impegnativi, tipo incisione, come presenza, anatomia, è già qualcosa, no? È moltissimo. Sì, moltissimo. È moltissimo. Perché come tempi di presenza sarebbe da passare tutta la settimana qua praticamente. Ah sì. Sì, poi con la scusa dell'obbligo di frequenza, cosa che non c'è per esempio in molte facoltà universitarie. Infatti questa cosa è un po'... È perché voi avete tutte le discipline pratiche, l'università non è neanche una, sono tutte materie teoriche e quindi è proprio diverso. E anche dei figli, allora. Certo, una più 2 nipoti, che per me è come se fosse 3. Hanno più o meno tutti la stessa età e quindi è una piccola comunità di matti, meravigliosi, e quindi guarda, è proprio capitato, è stata una cosa divertentissima, all'asilo, un giorno è tornata a casa, finora abbiamo sempre scelto le scuole statali e quindi sono classi veramente multietniche, l'asilo in modo particolare lo era. E una delle sue amichette del cuore era musulmana, algerina, musulmana. E quindi non mangiava il prosciutto a pranzo e non mangiava tutto ciò che era carne di maiale. Però un giorno questa bimba era curiosa e mia figlia ha detto, beh, ma scusa, assaggia il mio prosciutto. gli avevano dato una cosa che a lei non piaceva e quindi mia figlia le ha dato il prosciutto e questa bimba le ha dato tipo, non so, i formaggini, una cosa del genere. È una cosa che mi ha fatto da una parte spaventare, perché ho detto oddio, poi non sapevamo se i genitori fossero degli integralisti, chissà che cosa poteva, avrebbe potuto succedere. Perché lei è tornata a casa e mi ha detto, sai mamma, la Zainab non è allergica al prosciutto. Che senso? Perché ovviamente nella loro testa chi non può mangiare una cosa è allergico. Perché sai, Zainab non è allergica al prosciutto, perché io le ho dato il mio prosciutto. Gli ho detto, senti, assaggiare un pezzettino. Se ti esce una bolla vuol dire che sei allergica. Se non ti esce una bolla e ti piace, te lo do tutto. E gli ho detto, sai mamma, ha mangiato tutto il prosciutto, non è uscita neanche una bolla. Non è allergica al prosciutto, perché ho sudato freddo, ho detto no, sai, Zainab non è allergica, è che, e come lo spieghi un bambino di 4 anni, dico, il suo Gesù preferisce che lei non mangi prosciutto. Ah beh, mi ha detto mamma, allora domani torno a scuola e le dico, Zainab, passa dal mio Gesù, così puoi mangiare tutto il prosciutto che vuoi. Ho detto, no, peggio ancora. Ho creato anche. È andata a finire che la maestra mi ha raccomandato di tacere, che nessuno sapesse nulla, e poi ha vegliato, potevano esserci dei grossi problemi. E quindi da quel momento ho sempre vegliato sul piatto di mia figlia e sul convincimento a passare da un altro Gesù, che così si poteva mangiare quello che si voleva. Anche io ti ho fatto una lezione. E uno ha 21 anni, quasi 22, fa giurisprudenza. Aspetta, complimenti! E gli altri due sono due gemelli, 19. Lavoraccio. Però adesso sono grano. Uno è da Agropoli, che gioca a basket. Ah. Una scuola. E l'altro è qua che studia economia e commercio e gioca anche lui. Sono tutti organizzati. No, noi abbiamo... I miei tre... Per cui 2 più 1 sono ancora piccini, perché la mia è la più grande, ha 11 anni e mezzo, e Vale ne ha 10 e Tommy ne ha 9 e mezzo, che sono proprio vicini vicini. Solo che appunto i miei nipoti, una in particolare, è in una scuola cattolica. E quindi ogni tanto viene e dice a mia figlia, come sei fortunata, come sei fortunata. Noi andiamo a sentire la messa tutte le settimane. E loro si organizzano perché si annoiano, sono piccoli ancora. Però queste scuole multietniche sono belle, perché adesso, per dirle, che ha iniziato la prima media, mi raccontava di questa sua amica Sabrina, poi ho conosciuto Sabrina e Sabrina è nera. E io l'ho capito quando l'ho vista. Ah sì, anche la teologa è un mio figlio. Perché nella sua testa non c'è differenza. È bellissimo questo. E le aveva detto una cosa che l'aveva offesa, le aveva detto qualcosa sul suo colore, no? Erano piccoli proprio, non si dice questo. E lui era così, vabbè, ma è una donna. Ma erano delle cose, situazioni terribili ovviamente, perché loro litigavano sempre, lui che questa bambina, una situazione di rispetto, era una specie di amore-odio. No, io devo proprio chiedere, perché proprio, essendo cresciuta in queste situazioni sempre così miste, per lei non c'è differenza. Poi con i bambini è terribile, tanto litigano un po' tra tutti, poi se capita invece che qualcuno può crearsi una situazione particolare. Sì, poi ci sono anche delle forti divergenze economiche. Sì, che poi magari si mettono su altri piani, discorsi. No, di fatto è una, però questi nipoti sono molto presenti e quindi è come se fossero tre, loro stanno proprio crescendo insieme. Infatti ieri sera hanno dormito tutti a casa di mia sorella, tutti felici, per questa mattina a turno mi hanno dato il buongiorno come tre campanelli, perché sono a casa con la scusa del ponte di carnevale e quindi mia sorella ha organizzato. Ma abbiamo spesso bimbi per casa, perché poi sono stata la prima mamma a organizzare i pigiama party alle elementari. Arrivavano questi pigiami, poi l'ebbrezza della cioccolata a mezzanotte. Sono cose trasgressive bellissime. Per cui sì, queste presenze sempre costanti. Lei ha vissuto in Toscana anche? No, io ho un padre di origini fiorentine, origini, solo per parte di nonno. Siamo un bel miscuglio. E però lavoro a Firenze, ho un contratto con l'Accademia di Firenze, anche per cui sono a Firenze quasi tutte le settimane. Bello. Molto bello. Firenze è bellissimo. Bellissimo. Civile, vivibile. E anche la periferia è molto bella, ben tenuta. È bellissima città, proprio bella, bella. Come Torino? Torino ha un centro storico tenuto d'incanto, appena si esce la periferia risente tantissimo proprio della povertà che la città sta subendo per le scelte Fiat, è inevitabile perché poi la grande industria attorno a sé ha una miriade di altre situazioni e si sente, si vede proprio che la città sta soffrendo molto. Però per capirlo bisogna uscire proprio dal centro storico, perché il centro è bellissimo, anche qui sembra molto vivibile. Firenze di più. Firenze è Firenze, c'è niente da fare, Firenze. Puoi essere anche in questa accademia che ha un distaccamento al convento di San Marco, per cui quando sono stata la prima volta ho salito questo scalone e ho detto caspita, qui Savonarola ha vissuto, per cui fa uno strano effetto. Per cui sì, è un'altra cosa, ecco. Molto molto bella. Tutto a posto? Aspettiamo ancora un pochino, 5 minuti ancora. Cosa dite, riprendiamo? Vi ho lasciato con la suspense e adesso non mi ricordo di cosa, ho perso. Stavo parlando sempre del mercante. Cambio di culture, modifici, scrittori, tra Fiandre e Venezia. Non me lo ricordo. Se le copie erano più importanti, le copie anche e quindi appunto la diffusione dell'opera. C'è una cosa che volevo dirvi e adesso mi è scappata. Arriverà, tornerà. Sì, eravamo arrivati al fatto che l'artista doveva essere per questo sempre aggiornato per quello che succedeva con te. Essendo quindi un soldo del signore, dovevo in qualche modo informarci proprio in corretta. Certo. Riprendiamo? Possiamo? Tutto a posto? Oh, vi dicevo, no? Venezia appunto prospera come repubblica, per cui poche famiglie decidono le sorti della città. Non è una monarchia, non è uno stato assoluto, diciamo così. Ma non per questo non veglia sui propri artisti, anzi, pensate per esempio che quando vi sarà l'avvento della stampa, e per stampa non intendiamo la stampa della Bibbia di Gutenberg, per cui parliamo di circa 20 anni prima, parliamo del 1470, non nel 92, Venezia avrà la genialità del concedere il privilegio. E qui dobbiamo capirci, questo spesso lo troverete nei frontespizi dei testi antichi, proprio sulle copertine degli incunaboli o proprio dei testi a stampa dal 1500 in poi. Che cos'è il privilegio veneziano? Non è un elogio, il privilegio è un permesso scritto. Si doveva chiedere l'autorizzazione al Senato della Repubblica per poter stampare un libro. E qualora venisse concesso questo privilegio, per cui l'autorizzazione, quindi il privilegio è l'autorizzazione di stampa, l'obbligo era di depositare presso la Repubblica 2 copie di quello che si stampava. Capite che è un'idea geniale? Primo, in questo modo c'era proprio il controllo totale e assoluto su tutto ciò che veniva stampato. Grande apertura mentale, ma non totale, per cui anche qui c'erano dei controlli, non è che non ci fossero. Secondariamente, grazie a questo, noi abbiamo la Biblioteca Marciana, per cui una delle più belle biblioteche del Rinascimento e soprattutto del periodo in cui nasce la stampa, ha luogo sostanzialmente, non unicamente, vero, perché poi ci saranno tutta una serie di lasciti, di fondi importanti lasciati alla Marciana già in epoca rinascimentale, il nucleo centrale della Biblioteca Marciana, quella per la quale Sansovino realizzerà la struttura architettonica in piazza San Marco, è costituito proprio da tutti i testi stampati a Venezia, depositati presso la Repubblica di Venezia dagli stampatori stessi. E non si poteva stampare liberamente, servivano dei permessi per essere stampatori. C'era un controllo, tra l'altro, diretto. Più che sulle pergamene, il controllo sarà nel passaggio dalla pergamena alla carta a straccio, fatta di tessuto di conseguenza, una carta tra l'altro molto resistente, poco attaccata dai parassiti, cioè fantastica per quel che riguarda la conservazione. Venezia sarà una delle maggiori produttrici di questo tipo di carta e la Serenissima proprio conterà i fogli per i vari stampatori, per cui era anche difficile stampare, diciamo, di contrabbando, senza il privilegio, stampare questi libri non graditi, per esempio. Anche se, e le vicissitudini di Galileo Galilei ce lo insegnano, ad esempio, molti testi vietati in molte città d'Europa, non solo in Italia, poterono vedere la stampa a Venezia proprio perché Serenissima Repubblica. Per cui con un'apertura mentale maggiore, con una laicità soprattutto maggiore rispetto a molte altre situazioni, soprattutto nella penisola italica. Cosa hanno, dicevamo, in comune Venezia e le Fiandre? Questa apertura, naturalmente, per certi aspetti, il fatto che anche l'Olanda, Amsterdam in modo particolare, diventerà luogo di stampa molto importante proprio per la diffusione del testo stampato con grande rapidità proprio in tutto il nord Europa. Molti testi tedeschi, per esempio, venivano stampati ad Amsterdam. Ma in più, le fiandre vedranno nascere e svilupparsi probabilmente proprio in seno a quest'area commerciale di libero scambio, o perlomeno di scambio di ampio respiro, un gusto che possiamo già chiamare borghese. Mentre Venezia, pur essendo repubblica, ha i grandi mercanti che si fregiano del titolo di patrizio veneto e quindi in un certo senso occhieggiano all'aristocrazia delle varie famiglie, delle varie signorie d'Italia e dei grandi blasoni d'Europa, per cui c'è questo desiderio di sembrare principi, si chiamano, si fregiano infatti del titolo di patrizi, i grandi mercanti olandesi non hanno questo desiderio, non hanno questa ambizione. Di conseguenza il grande, fortissimo ceto mercantile nelle Fiandre non cercherà di imitare l'aristocrazia e darà vita ad un'arte che segnerà in modo sostanziale e inconfondibile proprio l'arte cosiddetta fiamminga, riuscendo a darci situazioni, di cui poi parleremo in modo specifico dalle prossime lezioni in poi, in cui anche l'elemento sacro verrà ambientato in spazi laici. Noi in quasi tutta la pittura fiamminga avremmo come spazio ospitante che custodisce la sacralità, la religiosità, che non è uno spazio ecclesiastico, non è l'interno di una chiesa, non è l'interno di una grotta, penso alla Natività, ma è l'interno di una casa, e la casa è una casa borghese che appartiene proprio ad un ceto medio, e per quanto riguarda le Fiandre questo ceto medio è proprio costituito per massima parte dal ceto mercantile. Questa sarà una rivoluzione enorme che andrà a segnare in modo considerevole anche molti artisti italiani. Difficilmente noi potremo immaginare Caravaggio così come lo conosciamo se Caravaggio non avesse conosciuto e studiato questo tipo di ambientazioni. Perché cito Caravaggio, che comunque è posteriore? Perché Caravaggio avrà l'ardire, per esempio, di darci Maria come una ragazza del popolo, no? Questo sarà il grosso problema anche nella censura di alcune tele che aveva realizzato per le chiese romane prima e palermitane poi. Il fatto di darci una figura che è sacra con sembianze popolane, popolari, semplici, umili, una Madonna seduta per terra, vestita come una contadina. Ecco, non è che Caravaggio all'improvviso un mattino si sveglia e decide di stravolgere la storia dell'immagine sacra. Caravaggio conosce bene, ma molto bene, la pittura fiamminga della fine del 1300, e meglio sarebbe dire proprio degli inizi del 1400, i primi 30 anni in modo particolare del 1400. Cos'ha di così rivoluzionario a livello di immagine, a prescindere dalle tecniche di cui parleremo nelle prossime puntate? Il fatto proprio di decontestualizzare il sacro. Maria con il bimbo, per cui diciamo una Maria partoriente, non è in una capanna, non è in una grotta, è in una casa. Altro grande stravolgimento: molto spesso questa Maria la troveremo non nella sala alta della casa, non nella stanza in cui si trattano gli affari e si ricevono gli ospiti, ma la troveremo presso il focolare, in cucina, là dove anche il patriziato veneto non entra mai. Ci stanno i servi, ci stanno gli sguatteri, non il padrone del palazzo. Ma anche a livello climatico siamo in una realtà completamente diversa. La cucina è il luogo più caldo della casa. Siamo nelle Fiandre, vero? Non siamo in luoghi caldi. Di conseguenza, i soffitti bassi, la grande quantità di legno, i grandi focolari imporranno a queste case di non avere molteplici stanze. E molto spesso, e questo lo impareremo poi vedendo anche molte opere di Vermeer, la casa si costituisce massimo di 3 stanze. Ce l'hanno insegnato gli Arnolfini, per esempio, no? La famosissima tavola degli Arnolfini, dove di fatto la camera da letto è anche sala da pranzo. La maggior parte del tempo si trascorre in un'unica stanza, non c'è una grande ripartizione. E tenete presente anche questo: nella casa fiamminga dell'epoca c'è anche una grande promiscuità che non appartiene al patriziato veneto. Per promiscuità intendo che la servitù può dormire nella stessa stanza dove dorme il signore, magari dorme per terra, ma nella stessa stanza. Patriziato veneto non avrebbe mai permesso questo. La servitù di solito dorme in soffitta. Per forza, vero? Non ci sono cantine nelle dimore veneziane, salvo, non so, le piscine personali con acqua salata. Per tutta la questione proprio tecnica, la casa veneziana a Venezia non ha cantina se non a piano terra. Non ci sono sotterranei, siamo sull'acqua, di cui è impossibile, dormono in soffitta. E questo poi determinerà anche a livello architettonico tutto lo sviluppo del piano nobile, che non è l'ultimo piano, ma che è il piano rialzato, il primo piano. Si è protetti dall'acqua alta, si è protetti dai topi, si è protetti dal fatto che molto spesso questi palazzi abbiano una darsena, cioè abbiano al posto di quello che per noi è pian terreno l'accesso della barca direttamente dentro il palazzo. Non si va sul marciapiedi per salire sulla barca personale. La barca personale entra dentro casa, in uno spazio che consente all'acqua di essere presente. La casa fiamminga è molto più piccola, molto più modesta, molto più semplice, anche là dove il proprietario sia molto ricco ed influente. Ovvio, a grande ricchezza corrisponde il numero di stanze, questo da sempre. Ma le raffigurazioni principali che noi abbiamo nell'arte fiamminga ci raccontano di case modeste, dove, vi ripeto, spesso anche i mercanti ricchissimi, come gli Arnolfini, che erano una famiglia di Firenze che aveva fatto fortuna nelle Fiandre e che, usando un termine contemporaneo, diremo che aveva aperto una succursale nelle Fiandre, avendo il proprietario un Arnolfini che con la moglie va a vivere nelle Fiandre, la dimora che occupa è comunque una dimora dagli spazi ridotti, non eccessivi. Si mangia, si pranza e si dorme nella medesima stanza. Si deve contenere lo spazio per motivi proprio di calore. Costa un sacco riscaldare queste case, c'è un tasso di umidità impressionante, tra l'altro, oltre che il freddo, oltre che una nebbia che nemmeno Venezia conosce, così densa e problematica. Di conseguenza avremo queste natività, queste Marie che abbracciano il bimbo appena nato all'interno delle cucine. Lo troveremo in Van Eyck, ma lo troveremo anche più avanti, in Campin. Oh, io lo chiamo Campin, con la dicitura fiamminga. Potete anche chiamarlo Campin, con la dicitura francese, a discrezione vostra. Di conseguenza, diventerà una sorta di sigla che appartiene alla pittura fiamminga. E vedrete che la Sacra Famiglia, 8 volte su 10, è una maternità e basta. Giuseppe raramente compare. Siamo in un altro tipo di cultura. Siamo in una cultura in cui, vi ripeto, iniziano gli scontri religiosi. Il protestantesimo non è nato solo grazie a Calvino, che ha affisso, vero, il proprio decalogo sulle porte del Duomo una mattina. Il protestantesimo è un fermento che ha radici più antiche, che vede la difficoltà nella convivenza tra etnie diverse. Tedeschi, francesi, fiamminghi, olandesi sono entità diverse, parlano lingue differenti, hanno usi e costumi differenti. La religione sarà modificata in virtù di questo, non il contrario. E vi ripeto, sono fermenti che nascono almeno 100 anni prima rispetto alla nascita di Calvino. Sono proprio delle incompatibilità razziali, diremmo oggi, per tutta una serie di motivi fortemente politici. Di conseguenza, là dove io vado ad attaccare il clero secolare, per cui il vescovo, la curia, là dove non amo molto la realtà monacense, non abbiamo grandi, salvo rare, rarissime situazioni benedettine, tra l'altro, non abbiamo grandi insediamenti di altri ordini, se non i carmelitani da un certo punto in poi, dal 1400 in poi. Se devo attaccare la Chiesa secolare, l'attacco che faccio, non avendo una presenza, per esempio, dei francescani sul territorio, lo farò andando a smontare quella che è la gerarchia della Chiesa secolare. Se sto vivendo a livello sociale una realtà in cui la borghesia è sempre più forte, e la borghesia è costituita da gente che lavora e che guadagna lavorando, il clero secolare non mi piace. Perché? Perché è figlio dell'alta aristocrazia, invece, no? I cardinali sono aristocratici, vivono come dei principi. Se io devo smontare questa realtà e dargli contro, la prima cosa che faccio è passare attraverso l'immagine. E quindi, così come invece la tradizione del 1300 in quest'area geografica mi aveva insegnato ad avere, dove Maria era una vergine incoronata, per cui era specchio delle principesse locali, soprattutto le principesse tedesche. Maria veste proprio panni principeschi, abiti di broccato, corone gemmate, come se fosse proprio una grande aristocratica. Se io vado a confutare questo tipo di clero, la prima cosa che faccio, o una delle prime cose che faccio, avendone la libertà, sarà quella di togliere la corona a Maria, e sarà quella di vestirla con panni che non sono ricchi di perle e pietre preziose, che non sono realizzate con il broccato, che è un tessuto veneziano complicatissimo, preziosissimo, ma queste Marie io le troverò vestite con panno locale. Gli abiti che indosseranno saranno molto ampi, molto ampi. Perché? Perché più tessuto una donna indossa, questo appartiene, guardate, ad ogni epoca, più ricco è il marito che lei rappresenta. La quantità di tessuto corrisponde a ricchezza economica. Il tipo di tessuto invece mi dice il rango sociale. Per cui queste Marie, che in un certo senso escono dal palazzo aristocratico ed entrano nella casa borghese, lasciano broccati e corone, nel palazzo e vestono come una signora, moglie di un grande mercante. Grande metratura, vi ripeto, ma sobrietà, semplicità. Vedrete, e lo vedremo nel corso, che le aureole stesse saranno talvolta assenti, sostituite magari da degli oggetti, collocati alle spalle. Potranno essere in vimini, per esempio, potranno essere in legno, potrà essere anche un paniere, un rame, che mi ricordano l'aureola, ma che non sono proprio un'aureola. È un modo per creare un filo conduttore tra l'uomo borghese e l'entità divina, una corrispondenza tra santità e mestiere, tra santità e oggetto di uso comune. È una delle più grandi rivoluzioni iconografiche che la storia dell'arte occidentale abbia mai conosciuto. Che cosa sostituirà tutta una serie di elementi all'interno di queste opere, che sono poi pensate per essere trasportate con facilità? Sono di piccole dimensioni, la maggior parte è su tavola, per cui materiale molto più resistente e molto meno fragile. In zone dove tutto sommato la tela c'è, non è che non ci sia, vero? Fiandre e Venezia hanno tele da vendere per un motivo semplicissimo, perché le tele nascono per la veleria delle navi. Di conseguenza, poter dipingere su tela non era così complicato. Non era conveniente, perché la tela è delicatissima da spostare. Se io penso come ragiona un mercante, dipingo anche come se fossi un mercante. E so che la tavola tiene di più, regge meglio, è meno soggetta anche a tutta una serie di sbalzi di temperatura. La tavola appartiene all'antichissima tradizione, che perlomeno nella penisola italica ci deriva dal mondo latino ancora. Il pinaces, di cui accennavamo per esempio ieri parlando anche di arte medievale. La tavola in legno è ciò che io lascio anche in eredità, tramando, per cui ha una sua solidità, oltre che una tecnica già consolidata. Le piccole dimensioni, vi ripeto, mi consentono di spostare con più facilità questi pezzi, di poterli portare in viaggio. Non a caso, ma questo rientra proprio anche in un'antichissima tradizione, molte di queste opere sono trittici. Attenzione, il trittico non ha solo la funzione di essere tre quadri riuniti insieme in uno. Il trittico è un'opera che ha degli sportelli, perché di solito il trittico ha una tavola centrale e due sportelli che possono chiudersi. Nel momento in cui io li apro, io dipingo anche l'interno. Guardate che questo fa proprio parte della mentalità del viaggio, del poter spostare delle opere senza rovinarle. E questo noi proprio già lo vediamo in epoca imperiale, dove le tavolette con i proclami, con le leggi, viaggiavano, essendo fatte proprio come un trittico. Tavoletta centrale con la scritta in cera, per cui potevo anche cancellarla, modificarla, riutilizzarla, chiusa da due piccoli sportelli, solitamente in legno foderati d'avorio, perché in questo modo anche avevano un isolamento dall'umidità. L'avorio è molto meno sensibile del legno, per cui l'avorio faceva da fodera, diciamo così, le famose tavolette eburnee dell'età imperiale. Erano fatte in quel modo perché viaggiavano, e l'idea poi passerà anche a questo tipo di tavola e nel tempo si amplierà e diventerà grande, cioè pensata ferma, ma chiudibile, perché non tutti possono accedere, non tutti possono vedere, è una cosa personale, privata, intima. Molte di queste opere oltre che viaggiare, abiteranno, diciamo così, nelle camere da letto, apparterranno al privato, non al pubblico. Molte delle opere che vedremo erano state commissionate da delle confraternite, non dalle cattedrali. Lucentezza, brillantezza. Vedrete che sarà una delle peculiarità degli oggetti all'interno di queste stanze. Troveremo sempre dei bacili d'acqua in rame o in ottone o in oro, meglio ancora. Troveremo delle lucerne lucidate al punto da riflettere la luce, come se fossero degli specchi. Perché? Perché proprio nelle Fiandre prenderà piede un pensiero teologico, filologico, che considererà Dio presente in ogni oggetto. Dio protegge chi lavora e il frutto del lavoro è l'oggettistica. Se Dio è presente in ciò che io costruisco, ciò che io costruisco ha in sé la scintilla divina e quindi può brillare. Da qui, per esempio, tutto quello studio straordinario sulla capacità del vetro di riflettere immagini, dell'ampolla che mi fa intravedere magari ciò che sta fuori dalla finestra, che nella tavola non c'è, non posso vedere. Questo modo di pensare porterà ad uno studio incredibile delle ombre, le ombre portate in modo particolare, complicatissime. E qui ne abbiamo una tra le più complesse, perché è un'ombra doppia, guardate. Anche qui noi ci siamo talmente abituati che nemmeno ce ne rendiamo conto. Gli alari e gli attrezzi per attizzare il fuoco riflettono la propria ombra a parete ed è un'ombra su due livelli, uno piano e uno verticale, uno orizzontale e un verticale. Saranno grandi maestri in questo. Vi ripeto, luce riflessa sugli oggetti, ombre portate, studio prospettico di straordinaria fattezza. E nello studio della prospettiva faranno utilizzo di quelli che tecnicamente, perlomeno in teatro e in fotografia, chiamiamo gli sfondamenti. Cos'è uno sfondamento prospettico? È in una stanza come questa, abbastanza limitata, noi vediamo che non è una grande stanza, la posizione, la presenza di una finestra socchiusa o aperta, oltre la quale noi vediamo un paesaggio con un lontanissimo orizzonte. In questo loro saranno grandissimi maestri. Leonardo da Vinci studierà questo modo di procedere. Gli sfondamenti di Leonardo da Vinci in parte risentono proprio di questa paternità. La sostanziale, l'enorme differenza sarà che nella maggior parte degli sfondamenti fiamminghi noi possiamo riconoscere tutto, perché sono dei dettagli impressionanti, minuziosi, precisi. Leonardo invece vi aggiungerà il cosiddetto sfumato, e quindi l'idea di questa nebulosità all'orizzonte. Cosa vuol dire? Che Leonardo, stando a Milano, conosce la nebbia e i fiamminghi, stando ad Amsterdam, no? Dura. La sostanziale differenza è che Leonardo da Vinci ha una costruzione e una preparazione da ingegnere. A questo sostanzialmente Leonardo da Vinci era stato preparato, ad essere un ingegnere di guerra e di gioia. Lascia Firenze per andare a Milano per fortificare Milano e per organizzare le feste per gli Sforza, i matrimoni in modo particolare. Perché? Perché per fare queste feste si usa macchineria teatrale, che è assolutamente sorella gemella delle macchine da guerra. La tecnica è assolutamente identica. Questi artisti invece hanno una formazione che è molto molto legata all'oreficeria e alla miniatura. Ecco che là allora dove Leonardo introduce lo sfumato, che se ci pensate un po' non è solo legato al clima, ma è legato anche alla battaglia, alla polvere della battaglia, alla guerra, all'instabilità, alla poca certezza e ad una vista umana, i fiamminghi invece sostituiscono una conoscenza, una pertinenza che passa attraverso la microarchitettura, l'oreficeria. Un'oreficeria che ha ancora tradizioni antiche, che ancora lavora su tecniche medievali, gli smalti, con almeno due tecniche medievali. La principale è la cloisonné e chi come ha frequentato medievale non può non saperlo, altrimenti gli ritiriamo i libretti e li rimandiamo a subire un altro corso, poveretti. Capite che l'oreficeria e la miniatura, per cui l'arte di ornare i libri, sono sorelle. Uso gli stessi smalti, uso lo stesso oro, certo trattato in modo differente, ma soprattutto devo essere minuzioso allo stesso modo, perché lavoro su piccole superfici. Quindi, Leonardo frequentava il Politecnico, un college. Ma non esisteva ancora. Diciamo che ha una formazione scientifica più che artistica, nel senso artistico come lo intendiamo noi oggi. Salve. Vi ripeto, lavorando appunto in superfici minuziose e piccole, lo specchio che abbiamo nella tavola dipinta sarà quello di avere anche nel paesaggio d'orizzonte tutti i minimi dettagli, realizzati con grande precisione, con grande cura, con grande attenzione. E vedrete che molto spesso il contatto tra gli artisti e anche il passaggio di mano di queste opere, oltre che attraverso i grandi commerci, passerà attraverso le grandi feste. Vi ripeto, siamo nel momento in cui la signoria si consolida, le varie signorie si consolidano, i grandi blasoni europei si costituiscono, iniziamo ad avere dinastie importanti che dureranno secoli. I matrimoni saranno i contratti migliori per unificare patrimoni. Pensate alla Spagna che unirà nord e sud grazie a un matrimonio, per esempio, no? Il nord della Spagna e il sud della Spagna grazie ad un matrimonio tra sovrani. Ebbene, quei matrimoni in grande, per cui nelle case reali, e in piccolo nelle case signorili, saranno uno dei momenti principali per gli scambi culturali. Perché? Perché se il mercante si sposta con una piccola corte, figuratevi che cos'è una corte che si sposta davvero. E in occasione dei matrimoni, sia il casato che ospita, sia il casato ospitato, devono l'uno dimostrare all'altro il proprio potere. E lo faranno attraverso abiti, gioielli e armi, per forza di cose. È in questo contesto che tornano ad esistere, per esempio, le corazze da parata, le corazze sbalzate, dai grandi maestri che traggono anche in questo caso esperienza dall'oreficeria. In questo frangente si donano oggetti. si portano oggetti. Vasellame prezioso, in oro, in cristallo di rocca, si donano libri, quanto di più prezioso esistesse all'epoca. Si donano gioielli. Ogni grande figlia che vada in sposa, e per grande intendo potente, ricca, porta in dote con sé non solo tessuto, denaro e oro, ma porta con sé anche tavole dipinte. Alcune opere proprio di scuola fiamminga arriveranno in Italia grazie a dei matrimoni. Alcune opere create in Italia, penso alcuni lavori legati proprio alle famiglie fiorentine, usciranno dall'Italia grazie a dei matrimoni. Per cui capite, e mi dispiace perché da qui in poi sarà sempre così, quando analizzeremo un quadro non parleremo mai solo del quadro. Dovremo sempre tener presente di tutta questa situazione, in cui cercate proprio di abituarvi a questo. L'arte, volenti o nolenti, appartiene. Nessun'opera d'arte è stata creata fuori da un contesto. Non è possibile. Ogni opera d'arte ha una matrice, arriva da un luogo, ha un significato, deve dimostrare qualcosa a qualcuno. E non è stata creata solo dall'artista che l'ha dipinta, mai, ma sempre da un contesto culturale, religioso, politico e economico. Per cui dovremmo sempre tenerne conto. Non spaventatevi. È solo questa lezione fatta così, mortalmente di parole. Già dalla prossima lezione inizieremo a fare analisi e di conseguenza io parlerò sempre tanto lo stesso, ma voi avrete anche molto da vedere. Prima di chiudere e di lasciarvi liberi, perché credo che per oggi siate oltre che a livello, sappiate anche un'altra cosa, che le Fiandre dovranno rendere conto ad un sovrano, perlomeno il primo dal quale partiremo, che è Filippo il Buono. Attenti a non confonderlo con Filippo il Bello. Filippo il Buono. Siamo proprio alla fine del 1300, inizi del 1400. Sovrano astutissimo, grande combattente, uomo che riuscirà con tutta una serie di capacità diplomatiche e non solo a scalzare dai propri territori la corona di Francia, ad allontanare le pretese della corona inglese sui territori proprio del nord Europa, intendo delle coste, vero, del nord Europa, e che vorrà non ostentare la propria ricchezza. Essendo forse il sovrano più ricco in assoluto d'Europa, sceglierà per tutta la vita di vestire panni umili e semplici, facendo propria una delle tante filosofie cristiane che prevedono che la ricchezza sia interiore e mai smaccatamente indossata. La potenza sta nel possedere, non nel far vedere ciò che si possiede. E di conseguenza l'arte dovrà allinearsi a questo modo di pensare. Questo modo di pensare lo incontreremo non in Spagna, come spesso si pensa, per la prima volta, ma lo incontreremo nelle Fiandre. Ben prima di quella che sarà la grande costituzione, appunto, del pensiero cattolico spagnolo legato all'Escurial di Madrid, per esempio. Ma avremo tempo e modo. Ultimissima cosa che mi preme abbiate bene a mente, è che molto spesso l'artista di questo periodo, in modo particolare, quando lavora, ha negli occhi situazioni che ha già visto. Tradotto, il teatro d'argomento sacro si esibisce nelle piazze alla fine del 1300. Le sacre rappresentazioni non sono all'interno delle chiese, ma sono nella città. Il pittore vede e ne è incredibilmente influenzato. Quando andrà a dipingere soggetti sacri, 9 volte su 10 avrà nella propria memoria visiva spettacoli ai quali ha assistito. E a seconda della matrice spagnola, filo spagnola o filo francese, avrà un tipo di memoria diversa. Molto spesso là dove vedremo situazioni cruente, sanguinose, con il Cristo che gocciola sangue da un'incoronazione di spine o da una flagellazione, avremo una forte impronta legata ai sacramentales, che sono proprio delle sacre rappresentazioni. A colpo di scena. Perché? Perché prevedevano solitamente un monaco o un sacerdote che leggesse, che so, il passo della passione con descrizioni che esulano dai testi proprio canonici, per cui non la lettura del Vangelo ma un commento alla passione, con un amore incredibile per tutte le descrizioni delle sofferenze, delle spine piantate, del sangue gocciolante, eccetera. Lo narrava, lo leggeva. Alle sue spalle aveva un piccolo sipario e quando si rendeva conto che l'assemblea, il pubblico, in piazza, non in chiesa, in piazza, era immedesimato al punto giusto, apriva con un colpo di scatto, proprio con uno scatto, la tenda e appariva solitamente l'immagine dipinta del Cristo flagellato, del Cristo sanguinante. Proprio con un vero e proprio colpo di teatro. Oppure dietro quella tenda potevamo avere una sacra rappresentazione fatta da degli attori, in modo da rendere il pubblico paurosamente coinvolto con la vicenda religiosa, con la vicenda cristologica. Là invece dove avremo situazioni meno cruente, meno sanguinose, meno gocciolanti, la matrice potrà essere francese o italiana. Per Italia intendo del nord, perché ovviamente l'Italia del sud sarà fortemente influenzata dai sacramentales. Gli spettacoli che si vedevano in Spagna si vedevano a Napoli, quanto a Catania, quanto a Palermo. Quindi anche la sacra rappresentazione, la teatralizzazione del testo religioso avrà su questi artisti un peso enorme. E questo, ancora una volta, noi non possiamo dimenticarlo. Peggio ancora, non possiamo ignorarlo. E per oggi proprio basta, perché già mi detestate e abbiamo fatto solo 3 ore. Vi ripeto, attenzione, settimana prossima quindi non facciamo lezione, ricordatevelo. Recupereremo quando sarete a posto con tutti i corsi del secondo semestre. Ci metteremo d'accordo sul quando e sul come. Ci rivediamo tra 15 giorni. Qualora riuscissi a contrattare una situazione più facile, sarete i primi a sapere, nel senso che lo metteremo direttamente sul sito dell'Accademia.